pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Prendiamo il passo dalla martellante attualità facendo un punto di riflessione su quella che è la nostra storia individuale. Io molte volte ve ne ho già parlato e forse ve lo ricordo questa mattina, sono molto sconcertato dal fatto che avendo due figli, io del maggiore ho due scatoloni di fotografie, del minore che ha soltanto 2 anni e mezzo meno ne avrò una piccola scatola da scarpe. Non che non lo abbia fotografato, l'abbiamo fotografato come tutti i genitori fotografano i loro figli, ma le foto del figlio piccolo stanno in dei CD, stanno in delle memorie digitali. Era già passato il tempo in cui si portavano le fotografie a stampare, e quindi probabilmente questo ragazzo crescendo avrà una memoria molto più futile legata alle immagini del suo passato. Probabilmente ne avrà una prodigiosa, capace di risorgere nuovamente, riversandosi di supporto in supporto. La riflessione è proprio questa. Quanto della nostra storia individuale rimane appiccicata, come se fosse una spolverata, alle foto della nostra vita? Quando la foto invece ci rappresenta una sorta di puntello, un'erma, un punto di riferimento sulla storia che appartiene a tutti noi, sulle storie collettive. Ci sono momenti fatidici della nostra storia condivisa che sono sintetizzati da un'immagine forte, da una foto. Mi stavo chiedendo, seguendo le cronache del terremoto, quale sarà la foto di quest'ultimo terremoto, perché è un evento che comunque sicuramente lascerà una traccia profonda nella nostra storia recente. Di altri eventi similari abbiamo comunque la sintesi in un'immagine. Ecco, quale sarà la sintesi iconografica di questo terremoto? Forse la piccola bara bianca al giorno dei funerali, forse la scritta diroccata del palazzo del governo, forse quegli oggetti quotidiani abbandonati tra le macerie, forse una campana tirata giù da un campanile, forse un santo resumato dalle rovine, a seconda del punto di vista o di una sorta di imprescindibile disegno che molte volte nemmeno gli uomini riescono a condizionare, il capriccio della foto storica che racconta un evento sarà quello che determinerà l'immagine di questo momento. E nella nostra storia individuale, nella nostra storia personale, se correte con la mente un attimo al vostro album delle foto o alle vostre foto, secondo una più adeguata alla contemporaneità maniera di percepire i ricordi iconografici della nostra vita, il vostro archivio digitale, quali sono le foto che potrebbero rappresentare delle tappe sintetiche della vostra vita, a partire da quella di quando siete nati ancora in braccio a vostra madre, andando avanti, quelle di voi bambini e quelle di voi adulti, le prime vacanze, le foto dei primi amori, forse rimaste in qualche scatola. Io, scartabellando per le vacanze di Pasqua in vecchi scatoloni a casa dei miei genitori, ho trovato nel fondo di una scatola una foto ingiallita di una ragazza pugliese che mi aveva ritagliato, avevo ritagliata io con le forbici. Una foto, probabilmente era una foto di gruppo, avrò tolto via il fratellino, i genitori, la madre, le zie, le nonne, tutti gli orpelli familiari, e mi ero tenuto quel quadratino nascosto in una scatola che ho ritrovato a distanza di 40 anni, qualcosa del genere. Eppure vedendola improvvisamente mi si è riaperto un mondo che avevo dimenticato. Quanto una foto riesce a riportare in superficie dei file seppelliti nella nostra memoria? Oggi l'argomento della discussione è questo. 800 24 0024, parliamo delle foto della nostra vita, quelle della nostra vita individuale, personale, la nostra di esseri connotati da una nascita e da un percorso vitale, e quelle che ci permettono di condividere il tempo che viviamo con i nostri simili. I fatti del 1969. 16 gennaio, Repubblica Ceca. A Praga, Jan Palach si dà fuoco per protestare contro l'invasione sovietica della Cecoslovacchia. Muore 3 giorni dopo. 20 gennaio, Stati Uniti. Richard Nixon diventa il 37esimo presidente degli Stati Uniti. 30 gennaio, a Londra, i Beatles tengono il loro ultimo concerto sui tetti della Apple. 14 aprile, Stati Uniti. La 41esima cerimonia degli Oscar viene trasmessa per la prima volta in Mondovisione. 3 giugno, Stati Uniti. Termina la prima serie di Star Trek dopo 79 episodi. 8 giugno, Stati Uniti. il presidente Nixon annuncia il ritiro di 25.000 soldati dal Vietnam a partire da settembre. 15-18 giugno, Stati Uniti, a Bethel, New York, in una 3 giorni di musica, il festival di Woodstock raduna 400.000 spettatori. 23 giugno, Italia, esce il primo numero de Il Manifesto in disaccordo con il PC, diretto da Luigi Longo. Ecco, questi sono alcuni eventi accaduti 40 anni fa. Voi direte, ma come tutte queste cose accadute 40 anni fa? E per ognuna di queste cose noi abbiamo un ricordo immediatamente visivo proprio per delle immagini che ci ricordano questi episodi. È già l'anno 1969, quindi già in Italia c'era da più di un decennio, quasi 15 anni, la televisione, quindi molte volte sono immagini in movimento, ma molte volte per ognuno di questi eventi abbiamo una foto fatidica che ce lo ricorda e che fa in modo che noi non ce lo dimenticheremo mai, semplicemente rievocando l'immagine. 21 luglio 1969, l'uomo sbarca sulla Luna. 9 agosto, Los Angeles. Nella villa del regista Roman Polanski si compie un efferato massacro, di cui verrà riconosciuto responsabile Charles Manson, con alcuni affiliati alla sua setta. Perde la vita, tra gli altri, la giovane attrice Sharon Tate, al 7° mese di gravidanza. 15 novembre, Gran Bretagna. Iniziano le trasmissioni televisive a colori. 29 novembre, Stati Uniti. Nasce ARPANET, predecessore di Internet. 12 dicembre, scoppiano 4 bombe in meno di un'ora tra Roma e Milano. A Milano, a Piazza Fontana, muoiono 17 persone e ne rimangono ferite 88. 15 dicembre, presso il Tribunale di Milano, viene accusato della strage di Piazza Fontana e arrestato l'anarchico Pietro Valpreda. In serata viene trasferito a Roma. Verso la mezzanotte, l'anarchico Giuseppe Pinelli, fermato e trattenuto in questura, precipita dal 4° piano e muore. Quanto ci sarebbe da dire su queste immagini? Io ce le ho davanti, molte delle immagini, degli eventi che vi abbiamo dato in rapida e non approfondita successione. Dietro ognuno di questi fatti sarebbe da ragionare, ci sono dei frammenti della storia della nostra patria. Ma pensate che la strage di Piazza Fontana, una foto che tutti ricordiamo, tutti noi che apparteniamo agli anni 50, per molti è qualcosa che già appartiene alle illustrazioni dei libri di storia, è coeva dell'immagine del primo computer di ciò che era l'antesignano di Internet, ARPANET. È una stanza intera piena di macchinari, e quello era ARPANET, quello era il luogo in cui si creavano le basi per la più fantastica ed immediata protesi che hanno gli uomini oggi a disposizione per trasferire se stessi al di là del luogo in cui sono appunto storicamente stati collocati. E poi lo sbarco sulla Luna, vogliamo mettere la più importante e fatidica uscita dal nostro tempo, che allo stesso tempo è sottoposta a un grandissimo e inestricabile dubbio. L'uomo è veramente atterrato quella notte famosa sul suolo lunare o è tutta una costruzione? Come vedete, anche un passato che si appoggia su iconografie per riportare la memoria, quelle dovrebbero essere delle certezze, molte volte proprio per essere appoggiato su certezze che sono certificate attraverso delle macchine di riproduzione, non ha in realtà il rango di vera e assoluta certezza. 8.000 sigarette, 6.000 caffè per la notte più lunga della televisione italiana. Due cifre simbolo del clima di una notte che ha impegnato oltre 250 persone fra giornalisti, tecnici e operai e 500.000 di invitati. Lo studio 3 di Via Teulada è stato il passaggio obbligato delle ansie, delle attese snervanti e di tutte le emozioni procurate da queste 25 ore lunari. Sono le 19:28 di domenica 20 luglio 1969. Gli ultimi ritocchi, poi l'avventura. Allora silenzio, pronti, mancano 30 secondi. Tutti a posto, per favore, grazie. Le prime ore della serata scorrono in un clima tranquillo. Roberto Koch, buongiorno. Buongiorno. È il fotografo, fondatore e direttore dell'agenzia Contrasto, che recentemente sta facendo un'operazione simile a quella che cui sto coinvolgendo il pubblico di Radio 24 questa mattina, raccontare per decenni la nostra storia attraverso le fotografie. Le clip che abbiamo costruito le abbiamo prese consultando e sfogliando un anno di fotografie, edizioni Contrasto 2, 1969-1989. Ecco, come ti è venuto in mente di cominciare a raccontare la nostra storia attraverso immagini. È un metodo che secondo te funziona per riportare alla mente quello che è stata la nostra vita? Ma la fotografia è sempre stata, credo, uno dei linguaggi privilegiati appunto proprio per la memoria collettiva. L'idea di realizzare due libri, uno sul 69 e uno sull'89, a distanza di 20 e 40 anni, ha una funzione appunto di rinfrescare la memoria, ma anche in qualche modo di allargare la conoscenza, perché diciamo, per chi come noi appunto ha vissuto questi episodi, certamente poter risfogliare, rivedere, avere una sintesi fotografica attraverso le immagini più rappresentative di quell'anno, di un periodo che è appartenuto alla nostra vita, è un modo anche un po' per risolleticare i nostri ricordi. Ecco, nessuno avrebbe mai immaginato, o perlomeno io, questa è la mia impressione, ecco, che in un anno come il 1969, che in sé non sembra connotato da epiche corrispondenze, forse il 68 perlomeno in un'immagine ormai molto stereotipata, ma il 69 sono successe un'infinità di eventi, se uno comincia ad analizzarlo proprio attraverso la memoria iconografica. Sono successe tantissime cose, è andata a termine appunto la repressione poi della primavera di Praga, con l'uscita dal Vietnam, tutte le cose che avevi citato prima durante l'introduzione. Io credo che siano stati due anni assolutamente indimenticabili, il 69 certamente, per altri versi anche l'89. Vorremmo però in qualche modo aiutare poi i lettori a ricostruire che anno per anno di fatto sono successe talmente tante cose che ogni anno spesso si può considerare come un anno memorabile. E la cosa interessante, credo, è che sfogliando questi due libri, in particolare quello del 69 con i ragazzi più giovani, vengono, diciamo, la discussione parte anche su fatti che, non avendo vissuto in prima persona, citavi prima la Luna e come, diciamo, la difficoltà per le persone di credere fino in fondo che tutto ciò sia avvenuto, ecco, questa difficoltà è più viva e più presente in persone che non l'hanno vissuto in diretta, perché tutti noi che poi abbiamo assistito allo sbarco sulla Luna, credo non abbiamo dubbi. Ma la nostra fede incrollabile in Tito Stagno non sarà certo compromessa da un libretto sulla possibilità che sia stata tutta una costruzione in un set fotografico, quel famoso sbarco sulla Luna. Melog 2.0. I fatti del 1989. 14 febbraio, Iran. Pronunciata da Khomeini la condanna a morte nei confronti dello scrittore Salman Rushdie, autore de I versi satanici. 15 febbraio, ritiro dell'esercito sovietico dall'Afghanistan. 20 febbraio, Catanzaro. Si conclude il terzo processo per la strage di Piazza Fontana. Stefano Delle Chiaie e Massimiliano Facchini sono assolti per non aver commesso il fatto. 22 febbraio, Roma. Arnaldo Forlani è il nuovo segretario della Democrazia Cristiana. Sanremo, alla 39esima edizione del festival, vincono Fausto Leali e Anna Oxa con Ti lascerò. 13 marzo, il documento World Wide Web Summary viene presentato da Tim Berners-Lee. Con questa data si usa indicare la nascita di Internet. 17 aprile, Polonia, Solidarność viene riconosciuta ufficialmente. 18 aprile, Pechino, cominciano le proteste studentesche in piazza Tiananmen. 4 giugno, Pechino, viene posta fine alla protesta degli studenti. Si contano innumerevoli vittime. Mi scrive Ubic Frammenti Briciole su Facebook: a volte però una foto può aprire l'accesso ad aree della memoria ormai completamente sepolte dall'oblio. Quella persona si rivede in foto, quell'amore mai cominciato ma che stava per accadere, quegli sguardi, poi la partenza, e magicamente l'anima gemella diventa un pezzo di carta in fondo a un cassetto. Forse le foto ci aiutano a ricordare che anime gemelle ne abbiamo tante, che non siamo così originali, ma che ci ripetiamo spesso, anche se poi ci muoviamo. Alessandro, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno. Ecco, lei ha dato un'occhiata ipotetica al suo album delle foto e cosa ha visto? Io, è successo adesso, non mi ricordo quando, però stavamo guardando le foto con mia mamma, delle foto vecchie, ancora in bianco e nero, abbiamo scovato una foto di mio nonno, pensi lei, di mio nonno che era, quando era prigioniero, sai il tesserino che si usava a dare ai prigionieri di guerra della seconda guerra mondiale, gli inglesi, che lui è stato deportato in Inghilterra per 4 anni, e abbiamo trovato la foto col suo numero di matricola da prigioniero, era giovane, aveva 20 anni, e siamo rimasti così, ecco, l'abbiamo custodita, l'abbiamo tenuta e non sapevamo neanche più di averla. È stato un momento così di Ecco, è come una resurrezione momentanea di un ricordo. Esatto. È stata la foto più diciamo significativa, ecco, che abbiamo visto negli ultimi tempi, perché ha riesumato una situazione proprio vecchia e allo stesso tempo ci ha rattristato, però allo stesso tempo ci ha anche reso felici, ecco, il fatto che abbiamo questa fortuna di avere, perché ne abbiamo anche parecchie, di avere queste foto molto vecchie che ci proiettano indietro, ecco, nel tempo. Tutto qui. Grazie, buongiorno. Grazie, molto gentile. Roberto Koch, ci siamo interrotti in prima parte, ricordo, fotografo, fondatore e direttore dell'agenzia Contrasto. L'ascoltatore ci pone quello che è il problema che in fondo attanaglia la nostra ansia di mantenere vivi i ricordi. Lui ha ricordato la foto del parente prigioniero perché aveva ancora un supporto, per quanto antiquato, ma stampato su cartoncino. Io ho pubblicato oggi nel mio profilo Facebook una mia foto di quando ero militare che è riapparsa dopo 20 anni in rete, e accanto una vecchia foto di mio nonno prima che facesse la guerra, quindi due foto che fra di loro ci sono più di 70 anni di tempo, siamo somigliantissimi. Ma la foto di mio nonno ce l'avevo, era in cartoncino, anche se rovinata, l'ho scansionata e restaurata. La mia foto era scomparsa, l'ho recuperata perché un commilitone l'aveva messa in rete, ma se no non l'avrei mai avuta. Ecco, la meraviglia del supporto digitale toglie qualcosa, secondo te, a questo senso tangibile della memoria legata a una fotografia? Io credo che la stampa sia insostituibile, cioè poter vedere, toccare un oggetto, una fotografia, è qualcosa di diverso che vederla a uno schermo di un computer. Ovvio che il digitale ci fa sempre pensare che si possa stampare più in là, più avanti, dopo, e in qualche modo si perde una memoria che invece si colleziona meglio attraverso delle stampe fotografiche. Ma per questo senti il bisogno te di poi stampare in un libro foto che forse, guardando nei motori di ricerca, molte se ne trovano anche in rete, per avere proprio questo nuovo effetto di qualcosa di tangibile? Assolutamente, questo diciamo è un, secondo me, un bisogno assoluto dell'uomo, di poter confrontarsi con la propria memoria, e le fotografie sono quello che le fa più rivivere. Quando si parla di persone care, sentivo l'ascoltatore Alessandro prima che diceva che è stata come una sorta di resurrezione, niente ci fa sentire più vivo una persona che è morta di una fotografia, mentre per esempio è delle volte insopportabile vedere un filmato di qualcuno che non c'è più, perché ci risulta ancora più forte la mancanza. Credo sì, che proprio l'esperienza è quella di una seduta medianica, vedendo un filmino di una persona scomparsa, e c'è proprio questo senso di angoscia della resumazione di un fantasma che non c'è più. È vero questo, però ne siamo abbastanza abituati. Senti, cos'è secondo te, poi lo chiederò anche a un tuo illustre collega che sta in ascolto, che fa diventare una foto l'elemento simbolico che racconta un'epoca? Abbiamo citato nella rassegna dell'89 la famosa foto di Piazza Tiananmen con il giovane studente cinese che arretra lentamente di fronte a una fila di carri armati. Quella naturalmente è una foto diventata un simbolo, è un brand. Altre foto simili che hanno segnato momenti fatidici della nostra storia. Soltanto a posteriori si definisce, una persona con l'occhio allenato come il tuo capisce, questa è la foto che racconterà questo momento. Ma è un insieme di fatti, certamente diciamo la capacità poi del fotografo di riassumere tutto in un'immagine dipende da quello a cui può assistere, anche dalla capacità sua di sintetizzare. Per esempio, per parlare della foto di Tiananmen, Stuart Franklin, che è il fotografo che ha realizzato questa immagine, la scattò a colori ma la trasmise in bianco e nero. La sua idea era che in un periodo come l'89, in cui erano la gran parte dei quotidiani aveva una prima pagina in bianco e nero, tutto questo avrebbe avuto un effetto maggiore, dirompente. Infatti diventa la prima pagina di quasi tutti i quotidiani del mondo. È stata rielaborata in 100.000 modi, come le foto di Andy Warhol. Alla fine è diventata un marchio, non so, anche mi sembra anche un marchio pubblicitario. In un periodo c'era una pubblicità che aveva questa foto, perlomeno non so di quale campagna, quindi viene anche spodestata dal suo significato primario quando una foto diventa una lapide che segna una storia. Ci sono foto storiche che rappresentano epoche sulle quali poi a posteriori si è posto anche il dubbio, come la famoso sbarco sulla Luna. Viene in mente anche il legionario spagnolo colpito nel momento in cui viene colpito miliziano, morto, ecco. Sì, che c'è una grande mostra in questo momento a Milano al Centro Forma, proprio su tutta questa foto e tutta la storia che c'è dietro questa foto. È incredibile come si sia in qualche modo tentato per decenni di mettere in discussione appunto la veridicità di quell'immagine. Nessuna foto rappresenta mai la verità, la fotografia è per forza di cose un'interpretazione soggettiva, ma non si può più mettere in dubbio il fatto che Robert Capa appunto in quell'occasione fotografò effettivamente un miliziano che stava morendo, l'unico morto di quel giorno. La posizione, il gesto di quest'uomo l'ha fatta diventare forse la fotografia più famosa della guerra e della terribilità che la guerra comporta a tutti quanti. Marcello Bonfanti, buongiorno. Buongiorno. Bonfanti è un fotografo di fama internazionale, anzi fa onore al nostro paese perché ha vinto Grazie. Il World Press Photo 2005, che mi sembra il premio più prestigioso del fotogiornalismo, l'hai vinto te, quindi ci fa piacere. Sì. Ci conosciamo pure, abbiamo anche fatto delle cose assieme. Ecco, te hai un altro tipo di approccio, te esattamente come il fotografo che comunicò la foto di Tiananmen e scelse di farla bianca e nera, te non fai dei semplici foto, te lavori molto sulla foto, le tue foto hanno qualcosa di pittorico, quindi vuoi lasciare una traccia molto personalizzata, racconti la tua contemporaneità, non necessariamente dei grandi eventi, li vai a trovare te gli eventi. Sì, ma come dicevi, le mie immagini hanno un'impronta pittorica, questo deriva dal fatto che per me la fotografia è stata, l'ho approcciata un po' come estensione alla pittura, cioè ogni percorso di ogni fotografo è un percorso molto personale e ognuno ci arriva attraverso strade diverse. Io ci sono arrivato perché a un certo punto della mia vita non avevo più tempo di praticare questa grande passione che ho sviluppato da ragazzino per la pittura. Studiavo ingegneria strutturale, non avevo abbastanza tempo per praticare quest'arte. Quindi nasci come ingegnere strutturale. Sì, era, da fotografia è arrivata un po' come, diciamo, sostituto più veloce, anche in un certo senso più meccanico della pittura. Dopodiché ho cominciato a conoscere i lavori dei grandi maestri della fotografia, ho approfondito l'uso narrativo di questo mezzo espressivo e ho deciso che sarebbe diventata la mia strada, per cui mi sono laureato in arti fotografiche presso la University of Westminster di Londra e da lì ho iniziato a conoscere il mondo della fotografia professionale, a farmi un'idea più... Però Marcello, scusami, quando nasce la fotografia, quando l'uomo ha cominciato a capire che esisteva una maniera rapida e anche suggestiva di lasciare tracce di se stesso, le prime foto, i primi fotoritratti erano completamente ritoccate, c'era pochissimo di realistico, erano delle foto in cui l'aspetto del ritocco con le metodologie del tempo era, quindi la foto già nasce come oggetto da contraffare, non come oggetto che deve per forza raccontare qualcosa di realistico. Ma oddio, dipende da, questo è un discorso molto ampio, molto complesso. Comunque le primissime fotografie erano dei daguerrotipi, non erano immagini riproducibili, nascevano un po' come l'equivalente di quella che noi conosciamo come la Polaroid. Per cui di interventi di post-produzione ancora non si poteva parlare. Gli interventi di, chiamiamoli, ritocco sono nati con l'invenzione della stampa da negativo e quindi sono stati ideati tutta una serie di interventi di post-produzione che hanno permesso l'interpretazione dell'immagine una volta scattata. E comunque gli interventi di ritocco insomma si sono un po' un attimino resi più complessi con lo sviluppo tecnologico e comunque sì, come diceva Roberto Koch, si è partiti, l'immagine fotografica non è la realtà ma un'interpretazione della realtà. Con la comparsa della fotografia in un primo momento si è diffuso il concetto di verità fotografica, quindi in un primo momento il pubblico pensava che ciò che veniva rappresentato dalla fotografia era in assoluto la realtà, e concetto che poi via via col tempo e con l'uso della fotografia insomma è stato ribaltato. E questo naturalmente vale anche per quello che è il nostro ricordo individuale, scartabellando o nello scatolone o nel pacchetto dei CD del nostro passato, sappiamo che abbiamo dei punti di vista del nostro passato, non ricostruiremo mai nella sua interezza, nella sua oggettività il nostro passato, ma è una rassegna di punti di vista. Melog 2.0. Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Un fiume di folla in festa passa. I berlinesi dell'ovest applaudono. Tanti giovani, giovanissimi in festa che dell'Occidente, della libertà, sapevano solo quello che avevano raccontato i loro genitori. Guardate questo fiume di folla. Questo fiume di folla che passa sotto gli occhi dei Vopos, la famigerata polizia del popolo che tante volte ha sparato per impedire l'attraversamento del muro. È naturale che noi, per farvi tornare alla memoria delle immagini attraverso la radio, dobbiamo mandare dei pezzi di radio, dei pezzi di telecronaca, ma provate a immaginare quelle che sono le immagini, le foto che raccontano la caduta del muro di Berlino, questi pezzi di muro che improvvisamente cadono, pezzi variopinti, e improvvisamente si vede in contemporanea ciò che accadeva dall'una e dall'altra parte di un luogo fisico che rappresentava ancora l'ultimo residuo di tutte le divisioni che provenivano dalla fine di un conflitto mondiale. Roberto Koch, mi sta scrivendo un'ascoltatrice, mi dice che a differenza delle foto fatte da fotografi professionisti, le foto degli archivi individuali raccontano soltanto i momenti felici, cioè i momenti legati a delle ricorrenze familiari, a delle vacanze e via dicendo. In realtà le foto che raccontano la storia sono storie di eventi che non sempre sono legate alla felicità, anzi molte volte l'evento tragico, l'evento drammatico è sintetizzato mirabilmente in una foto. È vera questa necessità di raccontare anche il dramma attraverso foto che lo sintetizzino? Ma certamente c'è un'esigenza giornalistica di dar conto dei fatti che succedono, e spesso i fatti che interessano la collettività e il mondo sono fatti tragici. Però credo che sia molto importante sottolineare l'altissimo valore della necessità anche di conservare memoria dei momenti di felicità. Ferdinando Scianna, che è un grande fotografo, dice che la massima ambizione per una fotografia è quella di finire in un album di famiglia. E credo che negli album di famiglia ci sia la nostra storia e ci siano appunto i momenti felici. Troppe poche volte la fotografia racconta momenti di gioia e di felicità, perlomeno la fotografia giornalistica di informazione collettiva, ma grandissimi fotografi, mi viene in mente uno per tutti, Jacques-Henri Lartigue, ha fotografato sempre dall'età di 8 anni tutto quello che gli passava intorno e soprattutto tutto quello che esprimeva gioia, costruendo un diario quotidiano che poi è diventato uno degli album più importanti della memoria collettiva. Credo che appunto, al di là del fatto che il giornalismo per forza di cose si deve occupare in maniera principale delle tragedie, dà poco conto di fatti individuali che pure puntellano la nostra vita con momenti di felicità, resta il fatto che la funzione importante della fotografia è anche quella di accompagnare la nostra storia e soprattutto di codificare dei ricordi, delle cose che ci possano riempire la nostra, contribuiscono a riempire la nostra vita. Ecco, grazie Roberto Koch. Marcello Bonfanti, invece per te, secondo me, è una mia interpretazione, dimmi se sbaglio, tu non devi lasciare dei momenti fatidici o epici alla nostra storia in memoria, ma tu vai a scovare delle situazioni e costruisci intorno a queste situazioni un tuo romanzo individuale, un tuo punto di vista, un piccolo racconto, grande racconto, e ce lo regali. Ho in mente le foto che ti hanno fatto meritare questo premio, queste foto delle queen cubane, poi le queen cinesi, foto molto particolari, drammatiche, strane, singolari, rielaborate. Lavori molto sul buio te, ci sono queste immagini che escono fuori dal buio, quasi una visione molto particolare. È stato un elemento molto importante di questo progetto, è stato un progetto che ho scattato nel 2004 sulla scena artistica underground delle drag queen cubane. E un argomento a cui sono arrivato più o meno per caso, in seguito a una serie di suggerimenti, e che su cui ho scelto di lavorare perché insomma c'erano una serie di elementi molto interessanti che convergevano tutti nello stesso punto. Tieni presente che questa situazione è stata a lungo tempo repressa dal regime cubano e oltre si trattava di una situazione artistica nella quale però venivano fuori delle componenti personali molto forti, quali l'espressione dell'identità di genere, e quindi c'era da una parte c'erano delle istanze sociali quali la libertà di espressione personale, di espressione artistica, e dall'altra c'erano delle componenti molto più intime come la libertà di espressione dell'identità di genere. Il tutto in un contesto che non è e non era tra i più democratici al mondo. E quindi ho voluto raccontare la storia di queste persone che uscivano, quindi ho voluto utilizzare il buio come elemento dal quale queste figure uscivano, appunto per raccontare il fatto che questa situazione stava emergendo dalla clandestinità. E questo succedeva nel 2004 e poi nel frattempo le cose sono cambiate, sono tornato circa un anno fa per continuare questo lavoro a colori e ho assistito a una serie di cambiamenti anche politici sul tema. Infatti circa un mese dopo il mio ritorno a Cuba, Mariela Castro, che è la figlia del presidente Raul Castro, ha annunciato anche una svolta politica riguardo questa materia, quindi ha legislato la possibilità di cambiare sesso chirurgicamente a Cuba, e quindi c'è stata una notevole apertura del regime cubano. Quindi naturalmente quindi anche questo servizio sembrava semplicemente ispirato da motivi di ricerca estetica, in realtà ha raccontato una sua storia, è stato funzionale. Ma adesso vorrei porvi un altro lato del mondo raccontato attraverso le foto. Finora abbiamo parlato di foto che epicamente comunque segnano dei momenti indimenticabili della storia, che necessariamente dobbiamo dimenticare, ma esiste anche un fotografo specializzato nel fotografare il quotidiano delle persone che in realtà hanno l'ambizione, la pretesa, o immaginano, sognano, o forse in parte hanno ragione di essere indimenticabili, ma saranno cancellate comunque dal senso del tempo. Umberto Pizzi, buongiorno. Buongiorno. Allora, Pizzi è il fotografo di Lago Spia, è quello che fa il Cafonal. Pizzi è colui che sta con la macchina fotografica da decenni appostato laddove il potere celebra i suoi riti più pacchiani, i suoi riti più orgiastici e più dimostrativi della decadenza del potere stesso. Ecco, te ti senti di rappresentare qualcosa che lascerà un segno nella storia, o semplicemente le tue sono le foto tombali di persone che già sono morte? Allora, io innanzitutto cerco di rappresentare la libertà di un individuo, che sarei io, di raccontare quello che vede e quello che succede. E in questo modo io ci sto riuscendo, perché questa libertà, che un po' me l'ha data l'internet, non un po', direi 90%, cioè ha sdoganato i segreti dei salotti romani, ecco, diciamo no, così. No, ma non salotti romani, perché secondo me è riduttivo dire i salotti romani. Beh, dei luoghi perché, in cui si celebra l'appartenenza. Io vado in Parlamento e racconto quello che vedo, e non è un salotto. Posso andare anche a un congresso di un partito e raccontare con un occhio un po' cattivo quello che succede lì, e ci riesco, e soprattutto riesco, grazie a internet e grazie a D'Agostino, che ha creato questo D'Agospia. Sì, lui ci ha messo il fatto che ha creato un genere di questo, di sì, questa tua passione. Esatto, e io, perché io ho sempre cercato nella mia vita di raccontare la verità. Purtroppo dagli anni 60 fino a quasi alle porte del nuovo millennio sembrava che non ci fosse nulla da raccontare di questo mondo e di questo universo, prima che lo raccontasse Pizzi con la sua fotografia. Pizzi, che è in linea, sei in linea ancora? No, è caduto anche Pizzi. Allora ti abbiamo recuperato. Ecco, volevo dire, Umberto, prima che tu lo raccontassi e prima che diventassi un pochino la riscossa di tutti coloro che non potranno mai mettere il naso in questi posti. Tu hai citato i luoghi anche dell'istituzione, ma non sono luoghi accessibili a tutti. Il fatto di vederli in rete, di vederli raccontati con uno sguardo graffiante, non elogiativo, le tue non sono le foto ufficiali, sono quelli che li vedono con la forchetta in bocca, con il panino, le donne traboccanti di silicone, queste che pensano di essere belle ma in realtà sono soltanto cadaveri. Ma loro, ecco, parlando delle donne siliconate che noi chiamiamo le mutilatine, loro sono contenti di apparire, non gliene frega niente, cioè perché non hanno ancora capito che la fotografia va letta, non va guardata solo, va letta. La fotografia è uno strumento incredibile, racconta più di mille parole. Però capito? Ti rendi conto, Umberto, che fa un po' sorridere il fatto che i soggetti ritratti in questa galleria di mostri, perché questo è, sono contenti perché loro, dal loro punto di vista, si sentono importanti, appartengono a un rango, a una casta. E noi che le guardiamo non appartenendo, ma semplicemente per miseria sociale, non perché non vorremmo starci dentro, vorremmo essere tutti nei salottini di Piazza di Spagna. Ti dirò che se si guardano bene, io non vorrei apparire in quella maniera, capito? Non vorrei sembrare un morto di fama oppure una maschera siliconata. No, tu sei come Zorro, sei quello che va dentro, si infiltra, prende il documento e lo mostra al mondo. Mostra al mondo quello che c'è al di là dei muri invalicabili dell'appartenenza. Poi l'appartenenza. Sì, comunque volevo dire una cosa che, visto che parlate della fotografia, la fotografia è un grande strumento, la fotografia non è solo l'immagine, ma dentro c'è poesia, musica, c'è tutto, basta leggerla, perché anche il mostruoso che appare, se uno chiude un momento gli occhi ci sente altre cose, capito? Come la bambina bruciata dal napalm in Vietnam, quella famosa foto che vinse il Pulitzer, quella racconta tutto, non ci sono state parole, scritti che abbiano raccontato più di quelle immagini. È quello che stavamo dicendo, appunto, una foto in sé è l'essenza, è il punto più alto, è la sintesi perfetta di momenti che altrimenti apparterebbero soltanto all'indicibile impressione delle nostre memorie individuali. La foto fa diventare e coincidere le memorie individuali in una memoria collettiva. Ringrazio Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Email melog@radio24.it.